questo è importante. Aprite le orecchie e fate andare le anche. Alto Mondo Studio, sabato 21 giugno, ore 23. Vieni a te. Informazioni su quel sito www.gigidagostino.com. Just for info 35 56 45 740. Oh, ma chi suona? Mette i dischi e Gigi D'Agostino. We'll be right back.

io, tu o noi? Noi adesso o poi? Adesso? Adesso noi? Sì. Suoni dentro di me.